camminerai, mi dirai chi sei, anche se la vita qui non è più così come la vorrei, ma tu forte crescerai, forse ti innamorerai, anche se l'amore è qui, non so più cos'è e non è più lo stesso, io lo so cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi che ritorneranno nel blu, come pioggia che dissete i nostri cuori. Ma tu, donna, poi sarai, quanta vita indietro avrai, allora mi proteggerai, più fragile sarò, ma sarò lo stesso, io lo so. Cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi che ritorneranno nel blu, come pioggia che dissete i nostri cuori. Nel tuo futuro un'anima e sarà migliore, rosa nata ieri, ed avrai nuove speranze, sogni, nuovamente amore, amore, yeah. Io lo so cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, così troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi che ritorneranno qua giù, come pioggia che dissete i nostri cuori, lo so. Rosa nata ieri, io lo so.